Rimasti in tre, tre somari e tre briganti. Siamo 33esima. Ma cos'è? Puntata di 100 celle Avengers, sigla! Temi che non venite, che non sono più quelli che cerchi veramente. Simbolo della paura della gente. Certo, certo, certo, la musica si riprende. Bentornati a 100 celle Avengers! La musica si difende! Sulle mani. Incredibile, in console con me c'è Alexa, c'è Iron Man per la 33esima puntata di 100 celle Avengers! Questa nuova puntata, mille rubriche, mille rimandi, i nostri supereroi della musica. Incredibile, accanto a me saluto in console Betta. Ciao ciao ciao! Incredibile, saluto alla mia destra, anche se dice che non mi sente, Gabri. Buonasera, bentrovati, bentrovate, rieccoci anche in questo sabato pomeriggio. Buonasera e buonasera ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Continuiamo ad avere qualche problemino di audio tecnico, ma non fa niente, si sente. Ma soprattutto tu sarai colei che farà il controllo qualità, perché non siamo sicuri oggi di essere in streaming. Benissimo, giusto? Giusto? Benissimo. Perché non c'è Silvano qui a streamare e quindi non abbiamo certezze oggi. Diciamolo che siamo un poco orfani di tecnico, orfani di regia. Questa deve essere incoraggianti verso la nostra Betta in console. È la prima volta che streamo, aiuto! Attenzione perché prende le scarole. Come Ranieri. Capita di prendere delle scarole al mixer, lo sappiamo bene. Ma come fa? Viola, dove sei? Ma soprattutto dove siete, Virgiani? È una puntata questa di oggi che parte veramente senza sapere dove andare a finire, perché non c'è Virginia. Virginia è il cartaceo è la vita, in una puntata in cui i temi si affollano, si affossano e non si sa più come fare. Ma ne abbiamo tutti argomenti da non credere! Yeah, yeah, yeah, okay, yeah. Ok, finita sta cazzata. Mamma mia, ragazzi, scusate, l'avevo fatta troppo lunga la cosa, dovevo fare un po', no? Anche meno. Cioè, la durata del... però bello, regge. Poi ho capito che non ce la facevamo a fare tutta la puntata così, quindi... allora, ma perché no? Torniamo in noi e benvenute e benvenuti agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Risaluto con calma Betta in console quest'oggi. Ciao ragazzi! E saluto sempre pacatamente Gabri. Energicamente, buonasera! Bene, ben trovati per questo pomeridiano appuntamento alle 17.03 di questo 19 febbraio 2022, giorno di gaudio in cui abbiamo un fil rouge, lo vogliamo già dire, anticipare il fatto che anche questa volta abbiamo concordato un argomento preponderante nel nostro svolgersi. Sì, sì, sì, anche questa volta in maniera assolutamente democratica, come di consueto il suonone ci ha imposto una tematica, un argomento che ci stuzzica un po' la curiosità. Parliamo infatti di hype. Attenzione, c'è stato pure rullante, lo vuoi dire tu, Betta? Parleremo di tormentoni. Ecco. Oppure anche detti. Anche detti earworm. Oh, diciamolo subito che diciamo il lessico anglosassone ci piace, lo adottiamo perché siamo convinti che a oggi, se insomma non usi il termine inglese per dire un qualcosa che diciamo fino a per tutta la vita ne hai parlato, ecco, hai utilizzato il termine italiano più conosciuto, però a un certo punto viene introdotto il termine inglese e se non lo usi sei un boomer. Ha fatto, ecco. Ha fatto la battuta. Sì, in effetti anche questa settimana ci siamo trovati con il divario fra il spendere mille parole, come ha appena fatto Gabby ad esempio, esatto, e usare una sola parola e dire earworm. E okay, l'abbiamo proprio fatto, dire, oh, con un miliardo di parole. Ma quella canzone che ti entra nella testa, sai, quella che è l'estate, eccetera. Regà, earworm, ma dai! Esatto, se non ci fosse Betta bisognerebbe inventarla e abbiamo appunto in lei il nostro glossario, come abbiamo già specificato nella scorsa puntata quando si parlava di biopic, che appunto chiamiamo biopic sempre grazie a Betta. E quest'oggi appunto parliamo di quella pulce nell'orecchio, volendo tradurre in una maniera un po' pseudo-letterale il termine earworm. Comunque di quel qualche cosa che ti si pianta nel cervello. Io dal mio punto di vista l'ho interpretato come il fonico che gestisce l'audio del cervello, ma poi fondamentalmente ci sono varie interpretazioni che ci si possono dare al fenomeno. Vedo Gabri che è agitata e per questo mi agito anche io, ma non per questo. Non per questo mi arrendo dall'idea di farvi spiegare il concetto del fil rouge di oggi da una canzone che fa appunto da introduzione, perché meglio di questa canzone forse non lo spiega niente. Io ho preso una bella scarola nel pensare che questa canzone fosse delle gemelle Kessler, più volte citate a 100 Celle Avengers. Ho preso una bella scarola, una bella toppa, perché si trattava niente poco di meno che di Mina. Questa canzone è divenuta la sigla di Canzonissima, quindi praticamente una canzone della Rai per eccellenza, fu fatta prima da Mina e poi dalla Carrà, e quindi bando alle ciance, zoom zoom zoom zoom zoom, ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo. Celle Avengers è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers ritorniamo a parlare del fil rouge. Abbiamo ascoltato Mina che ci parlava appunto della canzone che ti passa per la testa, perché poi la dimensione sì, musicale della canzone, ovviamente il primo sintomo, probabilmente la prima manifestazione più chiara di questa cosa, che però poi nel un hero or mante litteram, nella nostra, diciamo, sì, nella nostra ricerchina poi è diventata non l'unico, diciamo, elemento, ma siamo andati poi a cercare un po' il pelo dell'uovo di cosa ci tormenta, appunto, cosa ci si pianta nell'orecchio e perché, favorito da cosa e da cos'altro. Fondamentalmente sì, anche come sconfiggerlo, ecco, anche siamo, come sconfiggerlo, siamo passati, sì, abbiamo trovato tutto. Comunque questo è successo perché abbiamo passato un bel periodo probabilmente di produzione musicale di vario tipo, diciamo, gingolini, gingoletti, eventi che si sono svolti nella cornice anti-sanremese e quant'altro, insomma, ci siamo trovati soprattutto con Gabri, ma anche con altri, a condividere appunto lo stesso verme nell'orecchio che non ci riuscivamo a togliere dalla mattina alla sera. In particolare questo avviene, o comunque fa scopa, con una cosa che a una certa categoria di lavoratori avviene già. E chi sono questi lavoratori? Indovina un po'? I fonici. E quindi di questa cosa anzitutto parliamo a Traumi Fonici. Sigla. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo! Sono il vostro fonico! Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. E qui a Traumi Fonici su 100 Celle Avengers Radio Forte, oggi che cosa vi parlo? Che cosa ci parli? Cioè, veramente mi butto di sotto. Parlaci. Di cosa vi parlo? Vi parlo delle settimane trascorse appunto nel mixage di questa roba. Perché dicevo che fa scopa e che già esiste nel. Perché effettivamente non è legato necessariamente al pezzo il fatto che il fonico se lo ricordi. Quindi non è una questione di tormentone, quindi un bel tormentone orecchiabile, penetrante. Il fonico, anche quando mixa una roba che magari non è per niente commerciale, o insomma, fondamentalmente se la ascolta una quantità di volte inenarrabile. Chi sta vicino al fonico e cerca magari di fare compagnia o di. Si sente normalmente. No, aspetta. Tu. Dei loop, insomma, il lavoro del cesellamento delle tracce, cioè non è che si tratta di ascoltare solo la canzone più volte, ma di ascoltarne dei brandelli più volte torturandosi, insomma, chi ti sta vicino già ti odia, tu lo fai perché lo fai, ma poi farlo appunto provoca in te un trauma fonico vero e proprio, per cui non te ne liberi, a prescindere, ripeto, dalla natura del mixato. Se poi, che sia un tormentone o meno, dici. Esatto. Se poi il mixato, comunque il soggetto, è una cosa anche orecchiabile, anche diciamo studiata o meno studiata per essere cantata e ripetuta da tutti, tu non gliela fai più, c'hai cioè delle cose tipo che ti accompagnano durante tutta la giornata. Questa appunto era un brandello della nostra hit Virgiani, che faceva appunto la parodia di una famosa hit tormentone, che era bella studiata nel suo essere, e quindi poi se la siamo veramente introiettata, posso dire introiettata? Sì, interiorizzata, sì. Quindi per chiudere questa simpaticissima parentesi che strizza l'occhio ai fonici, io metterò un pezzo che un'altra volta appunto mi servo del buon Michele in arte caparezza, il quale parla di un suo problema, uno dei tanti, che ne parla spesso, di problemi fisici che ha, però che fa simpatia ai fonici, perché il pezzo si chiama Larsen e lui parla dell'acufene, che non è per niente simpatico, ma che è fondamentalmente una sorta di, ecco, earworm molesto, molto molesto a livello di Giovanna d'Arco e le sue voci, forse antesignana dell'earworm. Possiamo dire che Giovanna d'Arco è quella che ha inventato, sto dicendo una cazzata, vabbè, supportatemi un pochino, okay. Lei sentiva le voci, chissà, cioè il tormentone di Dio, ecco. Ah, ecco. Antesignana prima, cioè dopo Giovanna detta d'Arco, arriva Caparezza, che appunto con questo pezzo ci parla di come diciamo a forza di sentire tu pst, insomma fare il fonico anche l'artista si è stuccato l'orecchio, e quindi sentiamo Larsen di Caparezza. cresciuto tipo nel 2015. Visto che ancora ci convivo brindo 15. Da allora nei miei timpani ne porto i simili. Ogni giorno come fossi di ritorno da uno show degli SDC Larsen. Fischiava per la mia attenzione un po' come si fa con i taxi. Senza una tregua, una continuazione, ma come si fa con i carsi. Da solo nel letto ad annarmi, nella stanza con gli urlanti. Di colpo leggevo i labiali, quindi basta coi romanzi. Lo potevo calmare, amare, quiete stellare, antare. Scolorecchio preso, ammazzate con orme. Gregor Alvarez, uno squillo ossessivo, come un pugno sul cazzo, primo pensiero al mattino, l'ultimo prima di buttarmi giù dal terrazzo. Fischia l'orecchio in furia la cufene, nella testa vuvuzela mica l'ukulele. La mia resistenza è quella Zulu cede, se arriva all'Arsen te lo devi tenere. Fischia l'orecchio in furia la cufene, nella testa vuvuzela. Fischi pure se il locale carico applaudiva, calo d'autostima. Non potevo ascoltare la musica come l'ascoltavo prima. Io l'agostina, una pressione continua, la depressione poi l'ira. Mi rivolsi ad uno specialista che mi disse c'è una sola cura. Come prima cosa nella lista, palla con l'orecchio, chiedi scusa. Poi compress, flebo doppie, R.E.M. Ecco doppie, togliete, ecatombe, l'asse mi indenni, era stop. Credevano che fossi matto, volevano portarmi dentro. Ho visto più medici in un anno che Firenze nel Rinascimento. Stress, iniziano a dire, non sanno che pesci pigliare. A parte quello d'aprile, vorrei vederlo sparire. Fischia l'orecchio in furia la cufene, nella testa vuvuzela mica l'ukulele. La mia resistenza è quella Zulu cede, se arriva all'Arsen te lo devi tenere. Fischia l'orecchio in furia la cufene, nella testa vuvuzela mica l'ukulele. Radio Forte 100 Celle Avengers, l'autosufficienza della regia quest'oggi fa paura, non c'è neanche la base musicale. Allora, la verità è che io devo spiegargli tutto a Betta oggi e non, invece sono arrivato tardi, quindi non è colpa di Betta, vogliamo dire? No, purtroppo non so come funzionano le cose. Silly, ci manchi, Silly, ci manchi anche perché Betta si è messa a un metro e mezzo dal mix e quindi anche volendo intervenire arriverebbe tardi e rispetto sono corta, alla tempistica quindi della radio. Quindi niente, tutto funziona alla perfezione. Tutto ragazzi, alla perfezione. E Radio Forte 100 Celle Avengers, 17 e 20 di questo 19 febbraio 2022. Che seguiamo questo fil rouge del tormentone, veramente roba facile. Infatti, non lo volevamo chiamare tormentone, abbiamo deciso di chiamarlo Earworm per fare quelli fighi, quelli che si ricercano, quelli che sintetizzano. Quelli giovani, i boomer. I giovani boomer, potremmo dire. We'll Abbiamo fino adesso ascoltato diciamo le lamentele del fonico e quindi l'aspetto tormentone rispetto a chi mixa, ma che cosa abbiamo mixato appunto in questo periodo? Diciamo che sto per lanciare qualcosa che ho deciso negli ultimi minuti essere un centocella marcord. Sigla. Ricordati di te com'eri prima. Un'estate fa l'anno vecchio è finito ormai. Un'estate fa i ricordi. Un'estate fa tutti quanti stiamo già aspettando. Un'estate fa messaggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Un'estate fa ricordati di me. Così, debotto senza senso, sempre per citare un altro tormentone molto in voga. Perché la verità è che senza sigle ci sentiamo a disagio a parlare, non abbiamo, esatto, struttura. Non riusciamo a introdurre il discorso se non con una sigla. Ma sono i nostri tormentoni. Quindi, per eccellenza. Forzatamente, Centocella Marcord, che normalmente si preoccupa dei saggi, della scuola di musica, dell'attualità ma del passato, uno lo ricordi, uno lo vivi, quest'oggi in realtà appunto ci serve per introdurre questo trio che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi, il trio Lessuano, che si è prodigato in varie produzioni artistiche che hanno appunto conquistato un po' il pubblico dei piccoli, dei grandi e dei medi. Al punto da volersi proporre come tormentoni. Imporsi come tormentone. Tormenton makers, sì. Vogliono. Noi creiamo tormentoni. Essere chiamati. Comunque ci danno anche in realtà la possibilità di pubblicizzare nuovamente, anzi non nuovamente, oggi non l'hai ancora fatto Gabri, i nostri contatti. Perché? Perché abbiamo un canale Telegram. Usiamo questo, sì, incredibile social che si chiama Telegram, che era conosciuto fin dai tempi del... Questa sigla che sembra veramente fatta apposta per invitare tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ad unirsi, innanzitutto a scaricare Telegram, sembra brutto, ma se non lo avete dovete innanzitutto scaricarlo, sì. E poi a unirvi al nostro canale Telegram, appunto, che è gruppo aperto. Sì. Aperto a tutti. Sì, esatto, sul quale altrimenti inondiamo di messaggi. No, non è vero, non siamo così stalker. E Centocelle Avengers, radioforte.com/Centocelle Avengers. Questo è molto il nome bene, del canale. Questo quindi il canale per insultarci e eventualmente mandarci anche dei vocaloni che ci possano così rimettere su in carreggiata, ecco. Sì. Nel fare pubblicità ancora al trio Lessuano, nonché alla Radio Forte con le sue trasmissioni parallele gemellate con Centocelle Avengers, andiamo a nominare Aquiloni detti di parole. Aquiloni di parole. La trasmissione, sì, che si occupa dei più piccini, come tutti sanno, e che aveva questa sigla. Aquiloni di parole. Aquiloni di parole. Aquiloni di parole, aquiloni di parole, le fiabe corte su Radio Forte, stai a sentire con due ire, con ire tua, su tua. No, ho detto si chiamava, ma non perché non torna. Hai fatto piangere i bambini. Un po' che Aquiloni di parole magari non va in onda, diciamo, regolare. Però ci sono stati grandi annunci da parte di Gabri. Aquiloni di parole tornerà. Sì, yeah. Molto bene, molto bene. Quindi vuoi dire qualcosa? Ma sì, che quando abbiamo questa sigla di Aquiloni di parole è nata, e tra l'altro, tra parentesi, questa matrice comune del trio Lessuano, che nelle sue produzioni, diciamo, mette proprio, lascia il segno, perché ecco, è ridondante questa modalità di trattare il suono. Poi io non entro troppo nello specifico, non è il mio campo. In ogni caso trovate le similitudini con la sigla ascoltata prima e con quella che penso che volevi stiamo anche per ascoltare. Le fanno tutte uguali. Sì, era una maniera per dire questo. Ma questo giova al tormentone. Ecco, cioè io voglio dire, quando hai, abbiamo fatto la sigla di Aquiloni di Parole, è stato un verme che mi è, si è insinuato nell'orecchio e non è uscito per settimane. Veramente un tormentone di quelli epocali. Ecco, ci tenevo a dire questa cosa, sì. Bene, mai quanto quello che ti so permettere, allora, ecco. Che insegue sempre la stessa poetica che tu hai gentilmente dipinto come tutte uguali. ma è io il non segreto mi offendo, di non molti c'è autori. Il problema, io riporterò al trio quello che Gabri pensa di loro. E, aia, e che non siamo noi. Tanto, vabbè, comunque succede. Abbiamo anche noi il nostro avvocato. Comunque, ha tenuto testa nelle classifiche di Centocelle Avengers il seguente stacchetto che invitava all'Anti Sanremo che si è svolto in due Gaudio domeniche fa, due domeniche fa, è stato molto divertente. E Itlad. Ma che bordì? Io te l'avevo detto. Cosa? No, che pestata inventata. Guarda che io te l'avevo detto. No, ne, io stasera c'ho già un programmino che non me cagare. Te l'avevo detto, no. Onda Rossa Radio Forte, oggi presentiamo l'Antifestival, parità per bimbi di ogni età. Ah, ecco, sì, no, beh, ma questa devo poi. Ma io, guarda, devo dire, mo stacco e me ne vado. Io te l'avevo detto. Guarda, siete molto gentili, ma io non sono interessato, ciao, ciao. Io te l'avevo detto. Ma ci sta Sanremo, Amadeus, Achille, Lauro. Te l'avevo detto, no. Sì. Nessuna che porta. Questa sera va in onda il festival, sì. Di chi non sopporta più nell'altro festival. Te l'avevo detto, no. Suona Rossa Radio Forte. Saremo poi con l'Antifestival. Partecipa chi so, chissà chi vincerà. Questa è la verità. Che si chiama vita. E sulle note dell'ennesimo tormentone, che però lo usiamo soltanto come simpatico sottofondo, vedi come si presta, senti come sì, è orecchiabile, bello, anche questo bello. Ma è la hit dell'estate. È la hit che sì, campeggiò in classifica quest'estate, che tarda a togliersi dai cinemi. Perché ricordiamo che le hit dell'estate sono quelle che veramente restano sempre di più. Sì, tra l'altro non è un caso, probabilmente se la metto poi ce l'ascoltiamo un secondo e ci riorganizziamo per la prossima rubrica, tra poco colpi bassi. Non è un caso perché qui abbiamo probabilmente oggi per la prima volta, no la seconda, insomma abbiamo degli ospiti. Sì, cioè, eravamo soli, di eccezione, ci sentivamo soli e quindi probabilmente ci sono Lillo e Greg. Lo dico così a bassa voce perché comunque ci possiamo portare anche un po' sfiga, e perché sapete, organizzare queste cose è difficile. Noi li stiamo corteggiando da tanto e probabilmente più tardi vi aggiorniamo. E cosa c'entra Jorge il mentiroso con Lillo e Greg? Lo scopriremo anche questo dopo. Incredibile. Jorge il mentiroso, Jorge il mentiroso. Muchas cosas sobre su vida. Jorge el mentiroso, Jorge el mentiroso, que hizo mal olvidar la verdad. Ay, maldito. Non lo so, il mixer funzionava perfettamente. El mezclador. Se rompe el mezclador. Mezclador de sonido. ¿Dónde está mi soporte técnico? En aval escondido. ¿Por qué me mentiste, Jorge? Ay. Cuentaste que todo iba a ser perfecto. Vamos. Me emborrachaste con tus mentiras. Uy. Jorge el mentiroso, Jorge el mentiroso. Se olvidó de contarnos muchas cosas sobre su vida. Sabrosa, Jorge el mentiroso, la hizo mal olvidar la verdad. Jorge el mentiroso, Jorge el mentiroso, se olvidó de contarnos muchas cosas sobre su vida sabrosa. Jorge el mentiroso, burro. jorge, muy sabroso, lo hizo mal, volverá la vela. Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers alle 17:31. Che cosa facciamo in questa sede? Abbiamo annunciato che ci sarà Colpi Bassi, ma c'era Gabri che voleva appuntare, effettivamente sì, voleva anticipare pacatamente. A me interessa, sì, molto pacatamente. Interessa in maniera particolare questa, l'argomento, ecco, delle componenti sonore del tormentone, ecco, le componenti anche compositive del tormentone. E prendevo spunto proprio dal brano che abbiamo appena ascoltato, Jorge il Mentiroso, divenuta hit dell'estate 2021. 2021, dico bene, 2020, no, non esageriamo, dal 2021, 2021, sì, è stata produzione anche recente. Anche se l'idea, vabbè, lasciamo perdere comunque. L'idea 2021. Origina ben prima, probabilmente, ma adesso il nostro ospite Mari ci regalerà qualche altro dettaglio, Lillo e Greg, ecco, sì, di cui parlavi prima, i nostri ospiti. E partendo da Jorge il Mentiroso, io volevo quindi domandarti, maestro, ecco, quali sono le componenti, cioè cosa rende un pezzo un tormentone? Cosa ne fa un tormentone? Ah, grazie della domanda. Che è preparatissimo, vuole? Vero? Lo so. Che sarai, no, diciamo che avevamo proprio organizzato la disa Mina andando a sviscerare, sia perché, proprio perché non c'è, almeno apparentemente, la chiave di volta unica che dici dipende tutto da questo. Ma come al solito c'è una somma di componenti, appunto, quindi si parla di componenti sonore, che era quello di cui forse Gabri pacatamente voleva accennare a parlare, esatto. Ma ci sono anche le componenti compositive, cioè nel senso, prima si parla dei suoni che utilizzi, poi si parla della musica effettivamente che componi, quindi giri armonici, giri melodici, poi si parla dei testi delle canzoni, insomma sì. Abbiamo analizzato varie componenti, perché forse non ce n'è una che vince sulle altre. Ci sta un testo che probabilmente ha reso la canzone famosa, così come un BPM o così come un giro armonico. In realtà, appunto, lo svilupperemo con esempi vieppiù copiosi. Bene, ma... va bene. No, sì, perché diciamo che in Latino America il ritmo un po' così sudamericano in Jorge il Mentiroso cavalca un po' l'onda, diciamo, ecco. Cavalcare quella diciamo scia di reggaeton anche un po' monnezza varia che cavalca appunto anche le classifiche italiane fondamentalmente con il suo ritmo però poi insomma ne abbiamo fatto una versione, diciamo, nostrana, strana. Va bene, allora ecco, hai esaudito qualche curiosità? Mi ha tolto di mano la sigla di Colpi Bassi, che è appunto la rubrica che è gestita da Virginia, che non c'è. Che salutiamo ancora, ciao Virginia. È una giornalista vera. Tutta ad un pezzo, per cui ha mandato il suo post prodotto e non si è fermata certo per una pisquiglia così. Quindi salutiamo Virginia e lanciamo la sigla di Colpi Bassi. E state zitti! Oh, mi sono appena ricordato che Virginia è talmente professionista tutta ad un pezzo che in realtà lei manda sempre i suoi post prodotti già con la sigla, quindi di nuovo, aveva inglobato. Sigla di Colpi Bassi. E state zitti! Lo riconoscete? Riconoscete per caso questo riff iconico del celebre duo White Stripes? Bene, innanzitutto sappiate che quella che state ascoltando è la versione suonata da Vladimir Putin, ma la cambieremo presto. Questo gruppo e questo brano sono stati oggetto di vari misunderstanding, primo dei quali fu che i due siano effettivamente fratelli, mentre la realtà è un'altra. Fu a seguito della relazione fra i due che Jack White prese il suo cognome direttamente da Meg White, e fu così che creò uno degli pseudonimi più influenti degli ultimi decenni. Ma torniamo al brano. Tutti conosciamo il celebre riff soprattutto grazie alla popolarità acquisita negli stadi, e il merito iniziale fu del Bruges, ma forse non tutti sanno che fu la Roma a renderlo popolare in Italia, fino a diventare un vero e proprio inno ai mondiali, e il merito fu niente poco di meno che di mio fratello, regista di esperienza decennali nelle radio della Roma, che utilizzava il brano come sottofondo degli highlights. E qui io percepisco il fastidio e percepisco già tutti gli occhi della redazione alzati al cielo, ma io non ci sono, quindi queste cose le posso dire. Ah. Anche Pino Scotto, all'uscita del brano, sentì di dover dire la sua. White Stripes, purtroppo si sono sciolti. Comunque il poropopò di questo pezzo è diventato più famoso per i mondiali che per essere conosciuto come un pezzo dei White Stripes. Jack White sta continuando da solo. Io penso che ci farà delle sorprese. La mia percezione è che molti artisti non sarebbero contenti oggi di questo e sentirebbero sminuito il proprio brano per aver acquisito popolarità per vie traverse. Ma in questo caso invece mi piace riportare le parole di Jack White come un elogio della musica popolare e della musica folk. Sono onorato che gli italiani abbiano adottato questa canzone come propria. Niente è più bello di quando le persone sposano una melodia e la fanno entrare nel pantheon della musica folk. Come compositore è una cosa impossibile da pianificare, specialmente oggigiorno. Adoro il fatto che la maggior parte della gente che la canta non sappia minimamente da dove provenga. Questa è la musica folk. E in conclusione, l'ultimo misunderstanding del brano. Il giro di basso più famoso degli ultimi anni è in realtà un riff di chitarra. Paura, eh? Time right behind my back. musicali autogestiti presenta Scuola di Musica Forte. Corsi individuali di chitarra, canto, basso, pianoforte, batteria, tromba. Scuola di Musica Forte. Lezioni di batteria con Damiano. Bestemmia la prima cosa quando suoni. Un, due, tre. Porca madonna. Ah, mica sarà cattolico. Scuola di Musica Forte. Lezioni di chitarra con Corrado. Bene. Mazzo, dai, è bravo. Senti, io stavo a pensare, per la prossima volta ti preparo questa. Scuola di Musica Forte. La musica resiste. Per informazioni, www.forteprenestino.net. Attenzione, le lezioni online potrebbero dare assuefazione e aumentare il rischio di rancore verso il tuo device, batterie incluse. Su Radio Forte 100 Celle Avengers, proprio mentre sto per riattaccare, mi segnalano qualcosa di gravissimo accaduto. Oh Gesù, oh mio Dio. Ah, ecco, ci segnalano i nostri amici, sono sempre in collegamento, giustamente diretto, linea diretta, e ci segnalano che durante i post prodotti, quindi i colpi bassi che abbiamo appena sentito, c'era della musica di sottofondo che non avrebbe dovuto esserci. Come spesso, bene, come spesso amo dire, non bisogna evidenziare i difetti, ma esaltare le cose che funzionano bene, perché sennò qui sulle mani. Grazie comunque, Virgiani, che ci avete fatto capire che state ascoltando. Vi salutiamo. Ma come fa? Ho capito, è stato un errore. Non ne facciamo altri 100 attaccati. Comunque, cosa succede su Radio Forte alle 17:44 su 100 Celle Avengers? Succede che c'è il momento della cultura musicale, diciamo, che di solito è riservata al vecchio Iron Man. No, vabbè, tranquillo, non ti cago oggi. Però sempre la sigla c'ha, e quindi suono Just Cares for You. Suono Just Cares for You. E hanno ragione i Virgiani quando dicono che c'è il sottofondo. Vabbè, a parte le cazzate, che cosa trattiamo a Suono Just Cares for You? Sempre in merito alle componenti del tormentone, cosa crea il tormentone. Noi avevamo già in passato trattato l'argomento della cosiddetta modulazione assassina. Esatto. Era una cosa che abbiamo trattato con te, Iron Man, nelle vecchie puntate che tutti possono ascoltare in podcast su forteprenestino.net slash radioforte. Incredibile, slash 100 Celle Avengers. Ma di cui riparliamo oggi, perché? Perché la tesi era che fra le varie cose che contribuiscono a far sì che un tormentone ti rimanga tale, c'è questo malefizio che si chiama la modulazione. La modulazione in musica è fondamentalmente il fatto di alzare di una misura, diciamo, non sempre la stessa, comunque alzare la stessa frase musicale all'insù, diciamo, ribadirla un di tono tonalità. Di tonalità, scusate, infatti, grazie Gabri, grazie Gabri. Sì. Quindi con l'esempio si capisce meglio. La mia sigaretta brilla rossa, che diventa? Dimmi che cos'è che ci hanno fatto. Ok, ok, ok. Quindi tutto genera un così. Ok, è chiaro, più alto, è chiaro più il discorso alto. Modulazione. Cosa succede? Che quando tu ti alluppi e la canzone non la stai effettivamente ascoltando, ma la stai ricantando con l'omino del sulle mani. Con l'omino del cervello, grazie Gabri ai comandi, con l'omino del cervello che ti mette l'audio, succede che appunto tu la moduli dentro la testa, e quindi ti ritrovi a cantarla dentro la tua testa a una tonalità che è, diciamo, 15, 16 toni sopra l'originale, tutto in un processo che tu non ti accorgi neanche che avviene, ma che noi appunto abbiamo analizzato in questa maniera, prendendo in esame anzitutto Claudione, che salutiamo perché ci ascolta sempre, ma prendendo altri esempi di cui parlai anche quella volta. Il primo è il Duca Bianco. Il Duca Bianco, per esempio, c'ha un modo di modulare un po' a chiocciola, si potrebbe dire, un po'... non è esattamente proprio voglio andar via, voglio andar via, c'ha delle... It's a god-awful small affair. Poi, but a friend is nowhere to be seen. E poi but the film is a sad, è più complicata la questione. Il fatto è che questa qui è una modulazione carpiata, se vogliamo, perché poi ti porta a fare zompi di 5-6 semitoni e poi esplodere. Tutto questo sempre svolto durante le attività della giornata porta a questo appunto a loop, a lupparsi modulando, che fa salire diciamo la tonalità a livelli iperurani, per chiudere con colui che poi ha vinto anche allora la classifica delle modulazioni assassine. Abbiamo uno dei pezzi che diciamo tutti vorrebbero saper cantare, diciamo, e che modulare come, e che non contento de fanne una, non contento de fanne due, ne fa tre, e questo sempre nell'arco di un pezzo che si sviluppa secondo una poetica in cui la modulazione fa sì che appunto l'enfasi, il pathos cresca. Però te che te la canti, ripeto, passeggiando, fai quindi diciamo vince Overjoy con quindi la modulazione assassina per eccellenza, Overjoyed di Stevie detto Wonder. Con questo quindi Iron Man, spero che tu abbia fatto tesoro. No, non hai fatto tesoro perché ti ho abbassato. Scusa, hai ragione. I microfoni li abbiamo sistemati all'ultimo. Comunque colgo l'occasione a questo punto, perché siamo emozionati, ma è successo veramente. Sulle mani. Lillo mi ha scritto che non veniva. Greg? Greg neanche. Ah, però quindi non abbiamo, però incredibile qui a Radio Forte 100 Celle Avengers a parlare di earworm, tormentoni, assassini, modulazioni assassine. Abbiamo niente proprio di meno che Guido e Cobol, benvenuti. Però siete mutati. Che il fonico siete era... mutati? Aspetta, adesso ripeto, benvenuti UFO al popolo. Eccoci qua, grazie dell'invito. Ben ritrovati. Nel caso di Guido è la seconda volta, giusto? Nel caso di Guido è la però con un altro ruolo l'altra volta, quindi ho vari cappelli. Che ma io mi ricordo. Mi hanno censurato. Questa non è una radio libera. Non è una radio libera. Ricordo che è andata bene comunque. A parte questo momento in cui ti portavano via. Beh, in realtà voi mi avete invitato perché quell'accordo fra avvocati avete deciso di per evitare la causa. Una cosa simile è successo solo in Rai con Mastelloni, penso, no? Poi Mastelloni, poi c'è Guido a Radio Forte. Guido, il personaggio che tutti comunque vogliono nella propria trasmissione, perché dà colore, dà anche un po' il contraddittorio, no? Anche quello che uno non vorrebbe, soprattutto quello che uno non fa vorrebbe. Fa anche un po' polemica, ecco, dai. No, trolla, insomma, no? Trolla, si dice che trolla. Mi sembrano tutte cose non vere, non fondate, cioè nel senso io affermo delle cose, cerco di portarle avanti, ecco, di convincere, finché te non sei convinto, continuo. Se questo è un tormentone, chiamiamolo tormentone. L'ho appena diventato. Tra l'altro io ho in parte assistito a delle vostre discussioni in cui questa parola tormentone non doveva comparire, invece vedo che ne parlate tantissimo. Ci siamo aggrappati a questa cosa. Se avete ceduto immediatamente. Sì, questo utilizzo degli inglesismi poi infine è fallimentare, ecco, non ci convince fino in fondo. Tra l'altro io sono una promotrice, se proprio dobbiamo parlare di lingue che sintetizzano, cioè è il latino, parliamone, non è certo l'inglese, ma questa insomma è una polemica. Potreste che... parlare di circolo chiuso tipo tempo. Sì, ecco, e con questo io, Cobol, mi piace pure, volevo presentarti e dire che invece nel tuo caso è la prima volta ed è un piacere averti ospite in 100 Celle Avengers. Grazie, essere nel programma di punta di Radio Forte. Ma certo, no, auspicavamo questa collaborazione. Tu avevi espressamente chiesto, detto, scritto sul nostro canale, perché sì, sei anche molto attivo. Esatto. No, perché ci abbiamo lungamente pensato. Ed tanto. eccoci qui. Aggiungo che tra l'altro Boca Chica Cosmodrom, che è giunto al termine della sua primo ciclo, ha avuto anche un grande successo. Quindi trasmissione di punta è da vedere, ecco, perché secondo me, intanto, come partecipanti e aderenti al canale Telegram ci avete battuto, questo sicuro. Ho visto che voi avete all'attivo 40 puntate, uno sterminato parquet di fan, quindi tra cui me, che insomma. Ma che cos'è questa cosa? Questo scendevole, era solo per prendere tempo. Baudo e Bruno Vespa che si fanno i complimenti per lo share. Siete sdolcinati. Vabbè, quando ci si incontra nella stessa scuderia, è così, no? Esatto. Ma questo prelude a grandi scazzottate, quindi prego, iniziamo. No, vogliamo prego, dire maestro. Soprattutto perché sono qui, oltre che perché non ci sono Lil e Greg, Guido e Cobol, sì. Perché oltre a rispondere appunto alla descrizione, ambedue con modi diversi e modalità diverse, comunque io spesso sono andato a casa con la voce di Guido nell'orecchio, che non mi si toglieva più. Tornando alla parola tormentone, io metterei la parte finale, io sono il numero uno dei tormentoni, number one. Esatto. Forse è anche per quello che tormentone poi come parola è rimasta, perché per certe definizioni era più utile di earworm. Però fondamentalmente in tutti e due i casi abbiamo dei grandi campioni dell'eloquenza, vorrei dire. Guido un po' più che sonda sempre se sta attaccando la pipa. Se sono lo dici no, invece Cobol va dritto. Cobol è più dritto, diciamo. Se ascoltate Boca Chica Cosmodron, che è anche in podcast, potete gustare appunto delle lunghe trattatelli di in tutti e due i casi appunto rispondevano alla descrizione di Earworm. Ma soprattutto, che cosa hanno fatto, che lo direi quasi a Rise and Fall, alla rubrica degli scioglimenti e delle reunion, ma non lo farò. Si sono appunto uniti in un progetto di cui ci parlano. Infatti è terrore, vedo nelle vostre menti, no? Cioè, nel senso che i due peggiori si uniscono, ecco. Sì, io intanto vorrei sapere come l'avete chiamato. Ecco, partiamo dal... così, entro... Lo dico io e poi Guido spiega. Partiamo dal titolo. Vai. Allora, sarebbe Gopnik Pioneer, che però in realtà noi Pioneer l'abbiamo messo perché è più comprensibile, ma in realtà sarebbe Pioner, che è il russo pioniere, ma Pioneer l'abbiamo utilizzato per essere un po' più, come dire, accattivanti e sono un po' più DJ qua. Mainstream. Adesso lascio la parola a Guido sul significato profondo del concetto. Il significato nasce appunto da unione di due parole, Gopnik e Pioneer, e io mi sono imbattuto su questi termini prima del Covid, quando ho visitato in Russia San Pietroburgo, i quartieri periferici di San Pietroburgo, e quindi c'era questa sottocultura portata avanti da questi ragazzi giovani che si definivano Gopnik Pioneer. Allora io, incuriosito tantissimo sia dalla musica che facevano, sia dalla loro estetica e i loro comportamenti, mi sono avvicinato a loro e ho attaccato appunto il discorso per cercare di capire. E mentre la parte Pioneer ci poteva anche arrivare, perché Pioneer, come insegna Cobol, sono una sorta di scout dell'Unione Sovietica, qui riassumendo, quindi ragazzi con dei valori molto alti che... quando ancora c'erano i valori. Sì, infatti. Invece la parola Gopnik era per me assolutamente nuova, non sapevo proprio cosa volesse dire, chi fossero questi Gopnik. E i Gopnik sono esattamente l'opposto dei Pioneer, perché i Gopnik sono una sorta di perditempo, fannulloni, o come direbbe mia nonna, dei fannulloni, scavezzacollo, sì, in realtà dei mezzi delinquenti che stanno lì e passano le giornate assumendo una postura particolare che si chiama squat, stanno seduti sulle ginocchia, praticamente sulle piegati a terra, che poi volevo dire che è anche una posizione tipica del kung fu. Esattamente. E l'altra cosa, quindi indossano delle tute Adidas, proprio l'elemento cult per loro è indossare queste tute Adidas. Adidas che ricordiamolo, le scarpe Adidas e le tute Adidas erano indossate anche dai cosmonauti. Esattamente. E lì c'è stato il primo contatto che mi ha colpito, perché mi sono fatto spiegare da dove è nata questa passione per questo indumento. Allora mi hanno detto che durante le Olimpiadi di Mosca la Nazionale Olimpica fece un contratto con l'Adidas e quindi la Nazionale Olimpica sovietica indossava le tute Adidas. Da quel momento in poi è scoppiato questo culto e in particolare questo gruppo di delinquenti ha adottato come sua uniforme la tuta dell'Adidas, con fierezza la indossava sgranocchiando, questa è un'altra cosa particolare loro, dei semi di girasole. Quindi quando vedete questi su una strada di San Pietroburgo per terra seduti, oppure in una delle tante postazioni di Radio Forte, sì, bruscolini a terra, vuol dire che sono passati i Gopnik Pioneer. Qui ha fatto già un salto, perché bruscolini è la versione italiana cioè avete anche voi il termine quello più di immediata, no, scusami, sintetico, forse... si dice, sì, sintetico. Esatto, come me. No, io non li conosco come campioni della sintesi, secondo me non gli piace tanto sintetizzare in termini anglosassoni per di più. Vabbè, sono dei delinquenti, no. Gopnik delinquenti, per di giorno, che fanno atti violenti, anche comportamenti assolutamente disdicevoli, da lontani dalla nostra, dai nostri valori, sì, i nostri, sì, miei e anche del Forte, contrapposti, okay, ai e quindi la cosa che colpisce è che questi due opposti sono uniti in questo movimento che fonde l'estetica Gopnik ai valori dei pionieri. E quindi questo ci ha attratto sia a me che Kobol, e non potevamo che ispirarci a loro, cioè, sono tipo i Boy Scout a bestia. Esattamente, sintetico, perfetto, mi sembra una definizione che l'ho pensata chiara fino a mo', scusa. Metto pure mi pare un'ottima sintesi. E quindi, cioè, ma abbiamo un canale Telegram anche? Già? No. Oltre a... no, non solo non abbiamo un canale Telegram, ma siamo venuti pure qui a disambiguare il giorno, il giorno di messa in onda, perché in realtà noi aspireremo al martedì sera, poi se, insomma, diciamo, se esiste una slot libera, ci siamo, diciamo, la trasmissione è tutta in piedi, manca solo questo atto amministrativo... finale, la concessione, la frequenza. Quindi, se ce lo confermate adesso, possiamo dire al vostro pubblico, che spero diventi anche il nostro. Vabbè, sarebbe utile dare un giorno che poi è vero, cioè, quindi, esatto, non dare la sola. Possiamo dire che è martedì alle 21? Possiamo dirlo in questa sede? Possiamo dire che non diciamo quale martedì, magari. Sì. Così, cioè, non abbiamo detto la cazzata. Però. Ci saranno degli spottini che preannunceranno il tutto, ovviamente. Comunque, a presto, insomma, diciamo, in uno dei prossimi martedì. Benissimo, benissimo. Allora, presto sentiremo Pioneer. No, la pronuncia l'ho già. Gopnik. Sì, quindi Pioneer, 21 ore di Roma e 23 ore di Mosca. Questo è lo specifico, perché noi puntiamo anche a allargare l'audience a est. Certo, questo è il nostro faremo obiettivo. Comunicazione, la nostra strategia di comunicazione ovviamente arriverà fino in Russia, chiaramente. E, bene, su Radio Forte, quindi su Radio Forte. Siamo contenti. Centocelle Avengers alle 17, anzi alle 18, alle 18 0, spacchiamo 0, il minuto. Se ne sfila via la prima ora di divertimento e siamo felici di aver avuto qui ospiti. Già finita? No. Vi invitiamo a partecipare a tutta la seconda ora di Centocelle Avengers, così come faranno anche i tifosi della Roma che si stanno apparecchiando. Però con l'ufficio stampa gli accordi non erano questi, perché noi abbiamo anche l'altro passaggio su quell'altra radio, quindi non so se possiamo rimanere Kobol, cioè. Ah, è vero. Hai ragione. Io ho un'idea di quelle che si hanno così al momento di difficoltà. Ci ascoltiamo un qualcosina per riorganizzarci le idee, okay, e poi torniamo, che fra un po' partirà una rubrica alla mia destra. E intanto, riprendendo la simpatica, no, devo dire scusate, prima di far partire, non vorrei intervenire sulla cosa, però mi sorprende molto il totale vostro disinteresse sui contenuti della trasmissione. Complimenti. Abbiamo parlato del titolo, abbiamo parlato di tutto. Ci fosse stata una domanda su la paura, non è disinteresse, ma è paura. Questa intervista continua, ragazzi. Ma questa trasmissione di che cosa parlerà? No, ma è anche grande fiducia. Ma sei tu che ti sei affidato a Guido per fare la descrizione. Io, cioè, per sentire il video di Jorge il mentiroso, sentito sempre solo l'inizio, me lo faceva particolareggiata lui a questo nastro, è vero. E poi non arrivava mai. Aveva 10 minuti a disposizione, l'ha sprecati tutti completamente sul titolo. Guido tiene il palco, ci serve. Ho sbagliato, quindi la spiegazione attuale che ho fatto non era assolutamente bellissima e utile, però poi a un certo punto, mo fra un po', Come ah, per quello Gabriele mi sta dando i calci, mi sta dando dei calci, mi stanno dando dei calci. Io informo questo, mi tirano il filo e danno dei calci. Posso dire che forse questa trasmissione non è libera? Lo posso dire, Guido? Io penso proprio di sì. Cioè, oh, ce le avete dette tutte, potremmo campionare frasi e frasi per la prossima hit, veramente. Esatto. Che sì, che poi sono sì. I famosi, diciamo, come dire, circoli tempo chiuso. Mi hanno censurato, questa non è una radio libera, non è una radio libera. Esattamente la stessa fine abbiamo fatto, io lo temevo, ma vabbè, d'altra parte cioè, sono quegli ospiti che ti fanno alzare share, li chiami, esatto. Sta a rischi esatto. Come va, poi, io penso casomai... che diciamo, dopo aver mandato questo pezzo, Suanone, che così ci aiuterà anche un po' a ricapitolare le idee, continueremo ovviamente a fare domande ai nostri ospiti, così che in maniera molto vediamo sintetica, forse abbiamo da fare, vabbè. Rispettando tutti i tempi radiofonici del caso, ecco, ci racconteranno un po' meglio i contenuti di questa trasmissione nuova. Molto bene, riproseguendo quindi Ferruccio, giusto per la scusa di mettere una cosina per riorganizzarci, come dicevamo, ricordiamo che il Ferruccio appunto riguarda un pochino... Riportateli qui! Sono nella discarica, niente, torna indietro da lì. Giusto, signora, questo è il nostro lavoro. Quando Riley un ricordo non importa più, sbiadisce. Sbiadisce? Sono cose che capitano. Sì, tranne che a questo birbante, questo non sbiadirà mai. Oh, il motivetto della pubblicità della gomma. A volte la mandiamo al quartier generale senza motivo. Risuona nella testa di Riley continuamente, tipo un milione di volte. Ascoltiamola ancora. Tribodentana. Sì, lo so, conosciamo tutti quella canzone molto orecchiabile. Che ne dici, lo facciamo? Sì. Ok, pronti, via. Ma che? Ancora questa? Io vorrei... Insomma, il verme del cervello, l'omino del cervello, dell'audio del cervello, di questo si parlava a Centocelle Avengers, lo volevo ricordare perché a volte divaghiamo e quindi quando Gabri mi chiedeva quali sono le caratteristiche di un tormentone, intanto andando a parlare della ritmica, c'è sta una delle cose che ho voluto citare, lo metto, è l'essenzialità della ritmica. La ritmica qui è fatta da Pharrell Williams che fa il cavallo. Questo è Snoop Doggy Dogg. E Snoop Dogg, scusate. E Drop It Like It's Hot. Fondamentalmente nei tormentoni o comunque nelle commercialate di ultima generazione, una delle caratteristiche effettivamente è l'uso di cose che fanno un po' da contrasto proprio estremo a invece al suono gonfio della batteria, del cassone, del rullantone, e a volte sono molto usato il clap, molto usato lo snap, cioè cose proprio semplici e scontate. Qui invece ce n'è una un po' più particolare che effettivamente dà parecchia cazzimma al beat e ha reso questa canzone probabilmente famosa, sempre l'ha resa un verme nell'orecchio, l'ha resa un verme nell'orecchio a suo modo. Detto ciò, io so che qui alla destra ho un componente della categoria dei solisti, qui siamo anche una scuola di musica. Ma chi? Dove? Ah, no, non lo so, se n'è andata. Ma all'altra destra dov'è? E mentre ascoltiamo appunto Snoop, che non c'entra niente assolutamente, io comincio a prendere la direzione di chi vorrebbe mettere la sigla, ma solo quando l'esponente della categoria dei solisti mi dà l'autorizzazione. E allora sigla! Oh, ebbene, passando la parola a Betta. Benvenuti. Benvenuta Betta. Benvenuti alla rubrica dei solisti, come avrete capito dalla sigla, questa categoria di loschi figuri che non partecipano alla musica d'insieme, ma fanno i loro lavori in solitario, partecipando solo a determinate lezioni. Un po' come Guido. Questa non è una radio libera. Guido, comunque no, non vi sentite, cioè sentitevi pure liberi di intervenire, ecco, io non vorrei che adesso si sentiano veramente censurati. Scusa, Betta, se ti interrompo. Non conosciamo la nomenclatura della trasmissione, quindi male. segno che sono frasi false che dici, poi mi dai calci, lo dici da una parte, mi invidi a parlare e poi mi tagli, abbassi lo slide del microfono e ti do i calci. Mamma mia, ragazzi, meno male che abbiamo un avvocato qui. Ci dicevi, Betta, chi sono, no, i solisti? Mi dicevo, i solisti sono questa categoria vessatissima di persone che fanno tutte da solo, tutto da sole. E tanto per onorare la categoria, oggi, come dire, me la canto, me la sono e me la presento. Perché in questa rubrica faremo sentire un pezzo che ho cantato io. Ne approfitto per ringraziare la mia bellissima, bravissima maestra Serena Locurzio, che salutiamo. Ciao Serena. Ciao Sere. E questo pezzo si chiama Alleluia. Anzi, per sempre onorare la maestra, Alleluia, perché si pronuncia così, ho scoperto. Scritto inizialmente da Leonard Cohen nel 1984 e altresì, nonostante sia diventato molto famoso, non gradito all'inizio a Mamma Sony, che riteneva che il prodotto non fosse di questo grande spessore, ma con grande piacere di Cohen invece si rivelò un tormentone in qualche modo, visto che nel tempo fu reinterpretato addirittura 180 volte da tipo chiunque. Anche penso mia zia ha ricantato Alleluia, e tanto da meritarsi addirittura un vero, confermo, è un comunque tormentone, è stato veramente divino. Un tormentone. Ma di quelli che soprattutto, se posso dire, molto utilizzato nelle scuole di canto. Esatto, è vero, sì, e nelle chiese soprattutto, infatti ricalca il tipico tormentone della chiesa. Quindi insieme a Giovanna d'Arco possiamo anche mettere l'inventore di Alleluia. Sì, sempre fra gli antesignani del tormentone. Del tormentone. E questo brano, diciamo, si meritò addirittura un documentario della BBC, era diventato così famoso che è apprezzatissimo, che si meritò anche questo. E la sua versione più famosa, forse in realtà è più quella di Jeff Buckley, scritta nel 1994, inclusa nel suo album Grace. Maestro, mi prepari il pezzo? E quindi su Radio Forte 100 Celle Avengers. Alleluia. Alleluia. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Like this, the fourth, the fifth, the minor falls, the major lift, the baffled king composing. You needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew the broken. Hallelujah. sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Abbiamo appena ascoltato un solista che ci mette la faccia, perché brava Betta, trascinatrice di 100 Celle Avengers, non si è sottratta alla diretta, non si è sottratta alla post prodotta, sempre brava la nostra Betta. Grazie. Ho fatto tutta una rima che non volevo neanche fare, incredibile. Aspetta, Parabu. Dov'è? Eccolo. Oh, prendiamo confidenza con la regia, Silvano non c'è. Virgi. Silvano e Virgi che normalmente sono, ecco. Facciamo un applauso a Silvano e Virginia che sono a casa. Oh, come anche un applauso volgiamo ai nostri ospiti che ancora pazientano, ecco, resistono, sono ancora qui con noi. E allora? No, ma diciamo che da questa postazione rialzata della radio è un piacere stare qua, un po' meno piacevole stare sotto, dove ci avete schiaffati, però va bene. Sento sempre un po' una certa polemica da parte dell'ospite Cobol. Allora, censura subito, tanta, questa la tagliamo. Come se noi avessimo poi il potere di cambiare le cose. Va bene. In realtà sì, è vero, ma non è detto che la nuova creatura di cui andiamo a parlare non venga appunto... non si svolga qui sul parapetto di Radio Forte. Io tra l'altro tra i circoli chiusi di tipo tempo vi volevo consigliare i furbi. I furbi, gli animaletti furbi, le intelligenze artificiali per bambini, sì. Tra i primi. I furbi con la Y. Okay, i furbi con la Y, sì. Sì, i furbi che erano molto belli perché diciamo innescavano nel cervello dei bambini questi loop. Perché in realtà tu quando compri un furbi, il furbi non parla la lingua naturale del bambino, ma parla solo il furbi. E poi piano piano acquisisce, ma la cosa ancora più interessante era che non si capisce mai se è prima lui ad acquisire la lingua nativa del bambino, se è il bambino ad acquisire per prima la lingua nativa dei furbi. Quindi comunque passiamo al loop vero. Martedì 1 martedì 1 ore 21 Gopnik Pioneer. Martedì 1 ore 21 Gopnik Pioneer. Martedì 1 ore 21 che okay, tormentone Pioneer. Molto bene, sembra molto chiaro. Mi sembra che interpreta molto efficace, il tormentone. Guido, grazie. Noi vi ringraziamo molto di averci invitato. Non vi abbiamo detto nulla, esatto, sui contenuti. Li scoprirete in diretta. Anche noi, noi garantiamo che ci sono grosse novità, grosse differenze dall'altra programmazione. Questo lo possiamo garantire, giusto, Cobol? Assolutamente, assolutamente. Posso dire che sarà una trasmissione d'opinione? Non lo so. Vabbè. Ma vedrà coinvolto, cioè non so, parteciperete solo voi due? Passiamo e avanziamo. Avrete degli ospiti? Ego stereo. Benissimo. Da solista. E anche da un punto di vista musicale, non so, verrete quello non si può dire. Quello fa parte dei misteri della trasmissione. Stiamo cercando di creare aspettativa. Wow, hype. Cioè, noi le domande ve le facciamo, però se ancora la trasmissione non è pronta, ditelo. ci sono degli aspetti della trasmissione che contrattualmente non possono essere svelati, perché altrimenti pena diciamo la sorpresa e il pathos. Cobol, dovevi dirlo te, cioè nel senso i Pioneer si caratterizzano per dire di essere sempre pronti, quindi com'è possibile che la trasmissione non sia pronta? No, infatti è super pronta. È super pronta. Benissimo. Assolutamente. Bene, quindi vi aspettiamo sempre martedì alle 21 Gopnik Pioneer con nuova trasmissione di Radio Forte, sì. Nuova trasmissione tormentone di Radio Forte. Comunque il mio microfono è più basso, cui... cioè io non vorrei sapevo. Dire che mi hanno censurato, anche perché secondo me io il volume mio è più basso del io vostro. Io vedo il mixer che sta a cannone quando parli. Però forse è una mia impressione, ma d'altra parte chi sono io per giudicarti, non ti voglio appunto censurare per l'ennesima volta. Non ho toccato il cursore, l'altra volta l'ho abbassato di tre quarti perché ma questa volta invece no. Sei allora felice? L'altra volta cioè, l'hai censurato, l'altra volta è stato necessario farlo portare via proprio. Vedi che posso in chiusura dire dei problemi in mani che abbiamo avuto col DBX, che comunque è al piano di sotto. Diciamo che adesso interessa quella parte del nostro pubblico mani più nerd, che è un problema che abbiamo avuto col DBX, su cui ho tentato di fare un po' di sarcasmo durante queste settimane. Vabbè, noi vi lasciamo perché in realtà sappiamo che avete tante cose da dire, e non sapete neanche se arriverete a dirle tutte, quindi se arriveremo fino in fondo, esatto, ovviamente. Quindi vi lasciamo alla trasmissione, insomma. Martedì 1 ore 21 Gopnik Pioneer. Vabbè, se potresti... non l'avevate capito. E non parleremo di DBX, cose così. Io farò in modo di censurarlo, perché queste parti noiose verranno eliminate, non vi preoccupate pubblico. Praticamente ci avete usato solo per fare delle prove tecniche fra di voi, ditelo, cioè dite come siamo, come ce la caviamo nell'interazione. Hai capito lo spirito del benissimo. Nostro... Allora grazie Guido. Ancora per essere stati qui da noi, 100 Gelle Avengers, la redazione tutta. Ma anche possiamo se usarli informazione anche noi ridotta. Per lanciare la prossima rubrica. Assolutamente. Guido, oh. Lanceresti il Nord del Nerd dicendo il Nord del Nerd sigla, poi ti registro, vai. Il Nord del Nerd sigla. Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso il Nord. 100 Gelle Avengers, c'è una rubrica dotta che si chiama Nord del Nerd. Come l'ha chiamato? Nord del Nerd! Nord del Nerd! 100 Gelle Avengers! Ben trovati, piccoli nerd! Come dicevamo, oggi si parla di Hairworm. Ma dai, diciamoci la verità, su che a noi questa parola non ci evoca serie, le mosse di Rovazzi. Nah. Per noi il verme nell'orecchio è come minimo un parassita alieno. Favoriamo sovvenzioni ragionevolmente alte al partito Lumache al cervello. Ok, ma le lumache al cervello che vi controllano, che faranno per i lavoratori? Vi attaccano lumache al cervello. Certo, questo lo dite adesso. Bellissimo. E se non mi avete riconosciuto Futurama, siete delle brutte persone. Ma voi l'avete fatto perché siete dei brevissimi nerd. E quindi quest'oggi parleremo di Chi sei giù? L'ospite indesiderato. Chi sei giù è un prodotto non conosciutissimo, ma che ho sempre trovato interessante, che consta di un manga di 10 volumi e un anime di 24 episodi. La storia è parecchio curiosa, parla di un parassita alieno caduto sulla Terra una sera per fare quello che facciamo tutte le sere, mignolo, cioè cercare di conquistare il mondo. Il parassita, evidentemente non il più sveglio del mazzo, cerca di entrare nell'orecchio di Shinichi, il povero 17enne che, come tutti quelli della sua età, dormiva ascoltando i Black Sabbath, con gli auricolari. Sbattendo sugli auricolari nel tentativo di possedere il ragazzo, il parassita lo sveglia e, per metterci una pezza, decide di entrargli nel braccio destro, rimanendo intrappolato nella mano. Bella idea, nella mano destra di un 17enne. I due piano piano cominciano a conoscersi, vista la forzata convivenza, e sviluppano una bizzarra amicizia. Spero di avervi titillato la fantasia perché è un buon prodotto di nicchia. Ma detto ciò, passiamo al mainstream. Su, dai, chi è il parassita alieno per eccellenza? Stomaci che esplodono, uova verdi che non hanno dentro proprio il tipico braccialetto di ottone di Pasqua. Parlo ovviamente... La sai? Dai, provaci. Gli extraterrestri. No, era Lil e Greg. Che salutiamo. Sono Lillo. Sono Guido. Stavo parlando, questa non è una radio libera. Stavo parlando ovviamente di Alien, capolavoro di Ridley Scott. In questo caso il nostro parassita, visivamente parlando frutto del genio di Giger e Rambaldi, mica bruscoli, ragazzi, si insinua nei corpi dei poveri protagonisti per depositare le proprie uova e far nascere la sua prole con poco riguardo dello stomaco altrui. Una piccola curiosità musicale prima di passare alla ciccia: le luci laser blu che sono state utilizzate nella camera delle uova della nave aliena, dove vennero assemblate ben 130 uova, furono letteralmente prese in prestito dalla storia del rock inglese. La band The Who stava testando quei laser per l'imminente tour nel teatro di posa della Porta Accanto a Londra. La colonna sonora del film ha una storia un po' travagliata. Suonata dalla National Philharmonic Orchestra, fu composta da Jerry Goldsmith con molta passione ed attenzione. Si pensi all'apertura, nell'immensità dello spazio, il grande sconosciuto, come lo chiamava lui, un pezzo romantico e misterioso a rappresentare l'inizio ancora inconsapevole del terrore a venire. L'indagine sulla nave abbandonata, con questo tema che sembra, come disse Scott, riprodurre il DNA di una società lontana, attraverso elementi acustici ed elettronici per creare quell'atmosfera con il famoso effetto vento alieno, che era in realtà una conchiglia indiana, anche detto Shankara, attraversata da un Ecoplex tape delay machine che ha prodotto quell'effetto tromba così inquietante. I suoni per l'alieno e il suo mondo, per cui Goldsmith utilizzò un digiridù e un serpente, uno strumento a fiato parecchio peculiare che assomiglia a un serpente molto grande. Il terrore di questo mondo sconosciuto e della creatura è elegantemente accompagnato da questi suoni insoliti, ma purtroppo non sono tutte rose quelle che profumano. Nonostante la qualità del lavoro di Goldsmith, alla fine la sua musica venne usata pochissimo nella versione finale. Addirittura il finale fu quasi completamente sostituito da una registrazione del 76 di una sezione della Sinfonia numero 2 del compositore americano Howard Hanson. L'editing di Scott spostò, tagliò e incollò tanto che alla fine il lavoro di Goldsmith era a malapena riconoscibile, al punto tale che il suo tema principale appare più nella colonna sonora di Alien Covenant che nel film del 79 originale. Ironia volle che Scott si dimostrò sempre molto entusiasta della musica del povero Goldsmith e nonostante tutto gli fece lo stesso scherzone nell'86 per la colonna sonora di Legend, tagliandola a mani basse. In quel caso la partitura di Goldsmith è stata addirittura rimossa all'ingrosso a favore di una partitura New Age dei Tangerine Dream. Quanti guai in Paraguay, eh? Anche oggi è arrivato il momento dei saluti, ma vi lascio con brio con la sigla di apertura di Chi sei Gio? Let Me Hear, dei Fear and Loathing in Las Vegas. You got to know. Qui, lassù. Su Radio Forte 100 c'è l'Avengers. Perché avremmo sbroccato così a mettere Mary Poppins come bello passeggiare con Mary? Perché seguendo sempre il fil rouge che ci ha appassionato fino adesso, mentre smuto i microfoni perché ci sei, eccoci tornati, sì. Abbiamo pensato di... cioè che cosa è successo? Che nell'analizzare sempre le caratteristiche ci siamo chiesti se fra gli elementi che rendono un tormentone così persistente non ci sia anche qualcosa di legato al BPM. Scusate, BPM ci piace l'acronimo giovane, ma in realtà non sai oggi che vuol dire beat per minute, insomma la velocità del pezzo, laddove quella velocità si dovesse sposare con il passo che noi abbiamo quando camminiamo. Quindi che cosa è successo? Quando nella cornice sanremese, antisanremese che abbiamo vissuto poc'anzi, io con Gabri mi sono ritrovato a sera dopo aver passato la giornata da altre parti tutte e due, ci siamo rincontrati e lei mi ha detto non faccio più, c'è sto pezzo che mi sta tripolando, oddio. Bello, è bello, perché c'è un bellissimo pezzo del 2008, come, come ha detto il maestro Alessio. Sì, insomma, questo è il pezzo di Elisa che e io da bravo così, da sapientello, così ho detto ma questo è perché ovviamente questo pezzo è studiato come multiplo, come BPM multiplo del tuo passo, quindi insomma, passeggiando questo, se ci pensate, appunto questo ti viene bene. Quando ti viene bene il tormentone persiste di più. Ci sono degli esempi che rendono questo ancora più chiaro, cioè, certo più chiaro di come bello passeggiare con Mary, proprio non da so passeggio, se c'è sì, però sì. In realtà ci sono dei pezzi poi che hanno reso questa cosa anche in formato video, quel formato che noi in radio riusciamo a rendere molto bene, e cioè facendo i videoclip nei quali l'artista in questione canta camminando. o comunque è raffigurato un qualcuno che cammina mentre la canzone scorre, perché poi fra gli esempi possiamo anche abbiamo citato fra le varie Le Vibrazioni, poi parodizzato da Elio e Le Storie Tese con Spalmen, dove c'è appunto una bellissima passeggiata dai navigli milanesi. Ma io adesso vi ho messo un'altra cosa che è uscita, sempre parlando di questa roba, quando 100 Cell Avengers vuole esagerare e essere lezioso nell'andare a prendere la camminata più lunga della storia musica, dei videoclip. Fatboy Slim fa questo videoclip dove ce lo vuoi dire tu? Sì, è il cammino dell'evoluzione. Il cammino dell'evoluzione. Quindi una gran camminata. Da un rettile a un ciccione obeso, poi, diciamolo. Questo è il messaggio del video. Che grande evoluzione. Sì. Una grande base, ovviamente, divenuta poi colonna sonora di non so che, di qualsiasi cosa, credo. Ma soprattutto è appunto che era figo per questo videoclip. Però io apprezzo Gabby perché appunto è completa nelle sue ricerche, ma io associavo tutto ciò a lui. Scusate se l'ho presa lunga, mannaggia, la solita regia. Lui, The Verve, negli BPM. Anni 90 fa quest'altro pezzo per niente tormentone, dove cammina, spinge tutti, diciamo urta tutti in maniera anche maleducata, perché è troppo preso bene dalla sua canzone No Change Jacket. Quindi sentite come il BPM si sposa col passo, e quindi se per caso te la canti non la smetti più. E questa è Bittersweet Symphony, che adesso ci andiamo magari a sentire un pochino per averne contezza completa. The Verve on Radio 40, 100 Cell Avengers. Come Big Jim, radio forte, pick un player solo quando gioco a pass di notte, 100 Cell Avengers style. Sempre in diretta nell'ultima mezz'ora su Radio Forte 100 Cell Avengers, andiamo a farvi sentire l'altro contributo mandatoci dalla nostra collaboratrice Virginia, la potente Virginia, con cui ci scusiamo perché in realtà nella pausa abbiamo quasi deciso di non seguire la scaletta, poi ci siamo sentiti in colpa. C'è stato un colpo di stato. Un colpo di non stato. Possiamo farlo, sennò Virgi ci uccide. Virginia è molto potente. Ecco. Io sì, esatto, Iron Man difende gli interessi della sua prediletta, e quindi noi adesso andiamo a lanciare la rubrica che chiede molto alla vostra immaginazione, perché parla di danza on the radio e si chiama Video Dance on the Radio. Sigla. Ciao Bacimo de Gage. Bravo. Ma Virgi, che hai? Ti vedo giù. Ma come? Io avevo pronte le coreografie, i costumi, trucco, parrucco. E chi le vede mo ste cose? Ah, senti io. Cos'è? Il musical? Senza la dance. Capito?

sempre in diretta, soprattutto in orario, con il microfono su Radio Forte, Centro Cell Avengers. Adesso c'è anche Gabri, ma fra un po' ci sarà anche Betta. Ci siamo tutti, ci torniamo in voce. Sono le 18:38. Riprendiamo il fil rouge per dire cosa? Che questo è finalmente il momento della rubrica, quella che non ho mai iniziato ma ho sempre annunciato, cioè Campioni del Mondo. Quella rubrica dove appunto con la scusa di andare a cercare le cose che ci si stampano nell'orecchio e che ci si ripropongono anche provocando delle sensazioni, diciamo, all'interno del nostro vivere, io ho fatto una ricerchina, cioè più altro dentro di me, e sono andato a cercare appunto quello che ho voluto definire i suoni della presa bene e i suoni della presa male. Per dare un'idea, non so quanti ascoltatori a oggi possano riconoscere questa sigletta. Io sì. Comunque è un qualcosa è un qualcosa che si associa al risveglio, per quello si chiama trauma del risveglio, non a caso. E quindi un po' tanto mi ricorda appunto le mattine in cui ci si svegliava e non ci si voleva svegliare per andare a scuola. Ad oggi questo lo catalogo fra i suoni della presa a male, assieme a suoni tipo il trapano del dentista. Ah, madonna, guarda, mamma mia, ho dolore solo a sentirla. Questo appunto è quando ti fa la pulizia il dentista. Mamma mia, il disagio. Male, male, dai. Io pure detto, allora, a un certo punto io mi sono detto, non puoi sempre stare a fartela prendere a male con i suoni della presa a male. Avevo anche pensato di rievocare tutte le mie vecchie suonerie, che sono state tante, e ognuna di loro quindi mi annunciava cose nefaste e quindi concorreva. Allora io mi sono detto, no, pensiamo ai suoni della presa a bene. E cioè quell'insieme di suoni che almeno apparentemente nel mio soggettivo vivere rievocano momenti felici. Ma ascoltiamo. Cioè, questa era una presa bene. Questa è la frittura di Walter, non so quanti la possono riconoscere. Questo è un capolavoro, è l'unione dei suoni e dei rumori più felici che ci siano. Wow. Un po' frenetico e un po' sperimentale questo. Comunque ci è stato inviato questo contributo. Avevo già detto. Li avete riconosciuti? Avete riconosciuto i suoni? C'era la mescita del vino. Il tappo del vino che... Diciamo che io ho voluto rievocare un po' il fatto che noi a Centro Cell Avengers abbiamo fatto spesso del soundscaping per portare avanti il nostro sceneggiato, diciamo, e quindi abbiamo inventato cose che facevano appello appunto all'immaginazione dell'ascoltatore, come ad esempio questa, la conchiglia radiofonica. Ora voi che siete a casa, prendete la vostra radio, avvicinatela all'orecchio e... Esatto, la conchiglia radiofonica di Radio Forte. Li ascoltiamo. Fiume Freddo. Nota località balneare a sud della nostra splendida penisola. Vabbè, era estate. Cigni di Balacà. Summer Edition. Incredibile. Ti ho trovato comunque l'autolancio per quello che sta per succedere. Però vabbè, in realtà io appunto di samples volevo parlare e ho parlato, direi, ho fatto un po' le veci di Simply Sample, che oggi non c'era, e mi corrigerete se sbaglio, ma adesso cosa succede a Centro Cell Avengers? Se hai una musica pronta, esatto, che poi vogliamo, esatto, portare sempre a sfumare. Andare a ricalcare le caratteristiche, abbiamo detto quali sono i suoni, adesso con questa vi rispondo alla domanda quali sono i giri, cioè i giri armonici più tormentoni che si possano concepire, e lo faccio sempre trovando una musica che non la troverò mai, lo faccio cercando di cogliere, diciamo, tutti i piccioni con una, non è un bel esempio, vabbè, comunque sento che la stai per trovare. Non vi dico l'autore perché sennò non c'è ancora. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. Well, that's just two songs that are similar. That's forever not... young. Three I songs. Wanna be forever young. Ma quante saranno? I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. This is the way you left me. I'm not pretending. No love, no hope, no glory, no happy ending. 'Cause you were amazing. We did amazing things. If I could, then I would. I'd go wherever you will go. Can I feel the love tonight? And she will be loved. Yeah, she will. Stringi come Big Jim, radio forte. Pick un player solo quando gioco a pasti notte. Centa c'è la Ranger Style. Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, cosa succede? Lo posso dire? Sì, eccoci tornati in voce, sono le 18:44. Perfetto, abbiamo concluso anche la parte sui i campioni del mondo, bellissima. E se mi cedi la parola, è questo il momento. Era questa la mia intenzione, ci mancherebbe. Le 18:45 su Radio Forte 100 Celle Avengers. Sì, andiamo verso la chiusura e allora io mi autopresento la puntata di Cigni di Balacà. Mandando la sigla almeno due volte. Ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Balacà? Oh. Eccoci, bene, mi sento, sì, bene. Bentornati, bentornate. Cigni di Balacà, che quest'oggi appunto si accoda un po' al tema che stiamo trattando, quello degli earworms, dei tormentoni, anche detti tormentoni. E, perché a me l'argomento, ecco, sul versante, quello che mi piace trattare, appunto quello del diritto, direi che l'ora è buona per passare a questioni sì, di diritto. I bambini, cosa sono, andati i bambini sono andati a dormire, sì. Sento che la Roma vince perché arrivano intanto degli echi molto forse c'è stato il gol. Non so. Dare informazioni in radio, forse è pericolosissimo. Ok, come non detto, sì. E torniamo quindi a concentrarci su questo terreno insidioso del diritto, perché dicevo che il tormentone a me ha ricordato un argomento che è il seguente, quello dei marchi sonori. Ecco, un argomento insomma pesante, un po' ostile da masticare, ma che trattiamo in questa veste proprio per sottolineare come ha a che fare poi con, ecco, parliamo della possibilità di registrare un suono come marchio. Ecco, questa è la domanda che ci poniamo. E ci stupiremo anche di scoprire come ci sia appunto questa forte attinenza poi fra l'argomento che stiamo trattando, quello appunto degli earworms, e questa particolare tipologia di privativa industriale che appunto è il marchio sonoro. E quindi partiamo da una brevissima definizione di marchio, che è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelle delle altre imprese. Tra l'altro mi dispiace che Guido sia andato via, perché questo è un argomento che mi è stato anche suggerito in qualche modo indirettamente da lui. Ma non la porteremo mai a casa. Se non fosse. Sì, quindi no, infatti si parlava in particolare della commercializzazione dell'arte, ma vabbè, un discorso anche un po' etico, politico, molto interessante che io mi riserverei. Mi hanno censurato. Esatto. Ah, faccio guida, dai. No, me lo riserverei per qualche puntata futura, perché la registrazione comunque di un marchio, che fa in sostanza, garantisce al titolare un diritto di esclusiva, no? Sull'utilizzo di quel marchio medesimo, il conseguente quindi diritto di vetare a terzi, quindi a chiunque, l'utilizzo non autorizzato di un marchio identico o simile al proprio. E, ora, la categoria quindi dei segni idonei ad essere registrati come marchi si è nel tempo più ampliata, e i primi marchi denominativi, figurativi, che sono quelli che poi di fatto sono i prodotti che invadono i nostri supermercati, per intenderci, si sono man mano poi, se ne sono affiancati altri tipi che non sono di per sé suscettibili di essere percepiti visivamente, come appunto quelli sonori. Possiamo quindi definirlo il marchio sonoro come quel segno suscettibile di essere percepito dall'udito e idoneo a contraddistinguere un prodotto o un servizio. E sì, ne abbiamo, guarda, intorno a noi veramente parecchi esempi, vero? Ma possiamo sonore? Dire che possiamo l'equivalente dire... del logo? Del visuale, sì, possiamo dire in qualche modo che da, sì, da sì. Umile del popolo, ma il logo non è altro che un modo per esprimere un marchio visivo. Beh, volendo, è un modo, ecco, per riconoscere al volo che quella a Nike, quella, esattamente, sì, questo diciamo lo fanno le imprese quando vogliono che il consumatore medio visivamente comunque percepisca immediatamente che quel prodotto è riconducibile alla sua impresa e non ad un'altra, e quindi ci mettono un bel logo oppure prendono un bel suono, come nel caso che stiamo trattando ora, e lo rendono tale da farlo, diciamo, come dire, far sì che l'utente, cioè in maniera tale da renderlo più distintivo e percepibile possibile. Ecco, l'utente anche di sfuggita, l'utente medio anche più distratto, deve essere in grado di carpire quel suono, in questo caso, e associarlo immediatamente al prodotto in questione. Vediamo un po'. Partiamo da esempi celebri. Un esempio che mi dispiace ovviamente dover citare, però veramente calza a pennello, quindi mi forzo un po', ma lo faccio. Quindi un breve tema musicale, in questo caso è un jingle utilizzato nella pubblicità radiotelevisiva per reclamizzare un prodotto che è molto noto. Prego, suonono. Oh, ecco. È bastato un fischietto, probabilmente. È uno scandalo. Per... Se c'era Guido qua ci faceva veramente causa. È perché Cobble, no? Anche Cobble ha toccato proprio. Comunque. Va bene. Ma non siamo qui a dare giudizi o a disamine di tipo politico. Era McDonald's. Tutti lo abbiamo riconosciuto, ma soprattutto a chi non è rimasto in testa questo fischietto fastidioso, poi declinato anche con parapapapà, in altri 100 modi, l'abbiamo visto in televisione. Ma andiamo avanti, quale altro? Noi abbiamo anche dei rumori, ecco, i rumori identificativi di un prodotto, anche questi possono essere registrati come marchio. Un esempio in questo senso è il rombo di motore della Harley Davidson. Lo facciamo partire intanto. Questa nota casa di produzione di motociclette statunitense, infatti, ha tentato di registrare come marchio il caratteristico rombo del motore di una delle sue moto, questo che stiamo ascoltando appunto, e questo perché le case giapponesi stavano iniziando a copiare i motori americani sostanzialmente, e quindi per evitare che un motore nipponico potesse imitare un motore americano, la Harley Davidson ha pensato bene nel 94 di depositare la propria domanda di marchio del rombo, di questo marchio sonoro appunto, che era il rombo della Harley Davidson. Dopodiché ci fu uno di diversi anni di contenzioso, diatribe legali, per cui nel 2000 di fatto la Harley Davidson fu costretta a ritirare questa domanda. Non glielo consentirono. Sì, perché la procedura di registrazione di un marchio, ovviamente non sto qua a raccontarvela, ma è spesso complicata, può incontrare diversi ostacoli. Resta il fatto che il potere evocativo del suono è un qualcosa di molto potente, spesso più potente delle immagini, e quindi non c'è da stupirsi che anche il mondo del produci, consuma e getta poi ci abbia messo le mani sopra, sviluppando queste strategie di comunicazione che sfruttano proprio questa attitudine naturale dell'uomo ad associare poi le cose, gli oggetti, le emozioni a dei suoni, appunto, della presa bene. Ai suoni sempre della presa bene. E, per me, diciamo, possiamo anche passare, io avevo anche in mente di dare un po' di requisiti così minimi legali, ma diciamo vedo che il tempo, le lancette corrono, il buon Pac-Man qua, che è il nostro orologio di fiducia, ci dice che le lancette corrono. E allora possiamo passare all'ultima delle citazioni, degli esempi che mi erano venuti in mente, anche perché un esempio di marchio sonoro molto famoso, altrettanto di cui abbiamo famoso, parlato, di cui, voi. Ecco, che in passato, esatto, volevo dire proprio questo, ha ispirato la redazione di 100 Cell Avengers, quando si parlava di, mi pare, di serie. Quando si parlava di, sì, no, in realtà si parlava dell'incompiuta, cioè poi abbiamo parlato delle serie e basta, ma lì si parlava di quando c'hai una sceneggiatura che non va da nessuna parte, ma è molto, insomma, l'aspettativa era una puntata sull'hype, che poi abbiamo imparato a essere l'hype, perché Betta ha cominciato a darci una mano a sviluppare, quindi, a parlare, sì. Ecco. Esatto. Dal, quindi dal rumore, quindi dal ruggito del leone della Metro Golden Mayer, che tutti conosciamo, anche questo tormentone della nostra infanzia e non solo, ci ascoltiamo Scene da sceneggiatori, la piccola fiction, mini fiction. Volevi, sì, dire qualcosa? No, no, quello che il pezzo che stiamo per ascoltare, interpretata volevo dai, maestro, nostri franci che hanno avuto un incontro, Giuseppe, nonché Francesco, sì, Francesco, nel ruolo di, che hanno avuto il, appunto, un incontro proprio con il presidente della Metro Goldwyn Mayer. Si parlava di Metro Goldwyn Mayer, scusate, sì, è vero, ho dato tutto per scontato, siamo autoreferenziali, quindi posso andare? Scene da sceneggiatori. Prego, vadi. Senti, diciamoli che hai avuto problemi e... Ah, ti ho detto di stare tranquillo, tu, lascia parlare. Ma è impossibile che... Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Il signor Mayer vi sta aspettando. Prego, in fondo al corridoio e in bocca al lupo. Grazie, crepi. Smettila, controllo. Fai un bel respiro. Avanti! Signor Mayer, siamo... Ecco i miei geni. Venite, ragazzi. Ah, accomodatevi. Gradite un whisky, un sigaro, sì, non so, cos'altro. Solo il meglio, guarda, per i miei pupilli. Lei esagera, signor Mayer. Io esagero? Quello che scrivete voi è esagerato. Come vi vengono queste idee? Ma io l'avevo detto che siete un'avanguardia. Mia figlia non parla d'altro. Flash forward. Devo ammettere che anche io, sì, me sono un po' appassionato, eh. Si può dire che non ci ho dormito. Forse è arrivato il momento di svelarmi il resto del piano, no? Volete accontentarmi? Vado qui alla Goldwyn Mayer. Giravano strane voci sul mondo di Hollywood. I suoi eccessi, sapete... Addirittura quando incidemmo il famoso trailer, quello col leone che ruggisce, voi ricordate? I giornalisti si convinsero che in questi studi ci fosse un leone vero, in cattività. Ma ve rendete conto? Era vero. Ah, altri due creativi sprecati. Stai ascoltando Radio Forte e questo a Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica a performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. E sempre in diretta su Radio Forte, 100 ramarro in gola, 100 celle Avengers. Purtroppo abbiamo dovuto troncare il capolavoro Scene da sceneggiatori, ci scusiamo con gli interpreti, ma è il momento della cultura, 100 celle Avengers, musica in po' di sigla. Lasciatemi leggere, sentire questa poesia, morire. E non so leggere, questa poesia. Ciao ragazzi, che si parla oggi di tormentoni? Allora non posso non farvi tornare alla mente le poesie imparate a memoria negli anni della scuola. C'è qualcosa di incredibile in quei versi straordinari e senza tempo che hanno attraversato le nostre vite e le attraversano tuttora. Infatti diciamo che sicuramente molti di noi non si ricordano, che ne so, le cose fatte a scuola, di matematica, di scienze, però sicuro, sono sicura che almeno una poesia nella vostra mente circola, e perché la poesia è unica e ripetibile, come un fenomeno di natura su cui non abbiamo nessun controllo. Si potrebbe pensare che questo non sia più il tempo della poesia, ma in realtà è questa forza del passato che continua a manifestarsi e a trasmettersi di generazione in generazione, abitando le pieghe del sistema culturale. Ragazzi, rullo di tamburi. Ma come fa? Il poeta di oggi è Giacomo Leopardi. Eh sì, perché quando si parla di tormentoni, il mio tormentone è lui, ma sono sicura che anche per tante altre persone sia così. e siccome il mio tormentone ero indecisa su quale poesia portare e mi sono permessa di recitarne due. La prima è alla luna. O graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sopra questo colle, io venia pien d'angoscia a rimirarti e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari. Ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia che travagliosa era mia vita. Ed è, ne cangia stile, o mia diletta luna. Eppur mi giova la ricordanza e innoverar l'etate del mio dolore. O come grado occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste e che l'affanno duri. Ma come fa? La seconda poesia è ancor più tormentone, ancor più famosa, e però devo per forza recitarla perché non solo diciamo è stata fatta, mi è stata insegnata dalla mia maestra alle scuole elementari e la vecchia scuola primaria, come ricorderemo tutti, e quindi diciamo la porto nel cuore perché io sono porto nel cuore la mia insegnante in realtà di italiano e appassionatissima di poesia, e quindi diciamo questa conoscenza di Giacomo Leopardi fin dalla scuola elementare era un qualcosa, diciamo, all'inizio di superficiale, cioè non ricordo che cosa ci diceva, appunto. Io ricordo che lei però proprio ci obbligava a imparare a memoria queste poesie di questi grandi autori. E però questa poesia, diciamo, me la sono ritrovata poi anche alle scuole medie, quindi poi alle scuole superiori, e quindi ha attraversato tutta, diciamo, la mia età, e quindi e soprattutto la mia età adolescenziale, no? Ed è stato bello perché è come se Giacomo Leopardi, appunto, è come se fosse stato un mio amico che soffriva insieme a me, perché come sappiamo tutti l'epoca dell'età adolescenziale, appunto, è un momento segnato da frustrazioni, da angosce, da insicurezze, da tristezze, e ci si crogiola anche in questo star male, ed è bello anche per questo, ed è bella anche per questo l'adolescenza. E quindi ecco, è un poeta che io proprio sento da sempre come parte, come mio amico, come parte di me. E quindi la seconda poesia è L'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quelle sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quell'infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente viva il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. E con questa poesia vi saluto e vi mando un grande abbraccio. E alla prossima, amici, ciao, di Centocelle Avengers. Salutiamo tutti pure noi, l'ultima sigla. Ciao, ciao, la nostra Viola.